Già, Qua adesso ti ascolto anche con un altro apparecchio, ti ascolto a vedere come sei, perché l'apparecchio apparecchio cambia la tonalità, e lì fammi l'attacco, attacco l'altro, a vedere. Ma no, non c'è nessun rumore che faccia così qua. piazza, sempre con una ventola sembrerebbe. Aspetta, mi ascolto io. Piazza. È importante essere muta. Mettici la cuffia. Non c'è bisogno. Ora? Ma qua non ce n'è il rumore, anche io non lo sento. Ora? 1, 2, 3, prova. Metti la parlante se vuoi parlare. Per provare che ce l'ho con gli attacchi era 48. scappa, è quello che, visto che è svegliato originale, va, va subito. Però lo so, così ci sono avanti per la 48. Ora, non è più positivo, vera. Ora. Oggi a spingerci, la sera spezzina. Le parole le capisci bene, vero? Chiappa. Va bene, allora. Facciamo questo. Perché hai toni giusti, non è, non ha né troppi acuti né troppi bassi. Invece, nella 40 tutti i ricordi facciamo troppi acuti. Chiappa. In quello... modificato, ma se lo buono e normale va bene, magari la nuova personalità anche lo so, poi io ti do una bella passata di CDC, te lo dico, che sta da buonissimo, ma ragazza, ma dove avrai questi microfoni, ragazzi? A fine di usare tu. Allora, questo qui ci aveva partito il tasto del PTT e devo sostituire, allora, sostituire quello, dovevo cambiare anche la parte anteriore perché l'altro è rimasto il perno spaccato dentro al buco, quindi o dovevi riscaldare un chiodo e rifarlo, ma la cosa poteva anche andare male. Poi c'aveva anche la retina lì davanti che quando andavi a parlare mi pungeva perché c'aveva così fuori. E allora lo cambio direttamente. Mi sono capitato, non giocava da tutto. L'ho ripiazzato nell'altra parte anteriore, dicevo di un DM1000. Ma sembrava che funzionasse tutto bene. Dopo un po' ha fatto questo affare con... Vedi un po' carendo, già si può aggiustare, tutte le cose si può accostare, e non si può accostare a ne vendere, no già, capo, ma penso che si è fatto in casa a vedere dove sta il problema, io penso che ci si riesca a risolvere, allora è. Sei buono lo stesso anche così, va bene. Che ti fai quando parli, lo sai? Anche io lo sto facendo. Ma qua c'è solito con la fontana, vedi? Questo prende tutti i rumori, adesso non ti preoccupare vedendo lontano. Ma lo so forse perché c'è acceso il monitor, lo so. Cazzo, prova a spegnerlo. Ecco cos'è quel rumore che significa che poco fa, guarda se lo fa adesso. No, non lo fa. Il monitor. Usa una radio con un monitor per ascoltarmi, no? Ma adesso le cosce sì. Cazzo. Va. Ma adesso c'è le mani lontano, va. Ah, si intende lo tavolo. Questo io non me ne avvicino mai io di questo, perché non c'è bisogno. Però che cos'è? Questo è l'M95. Ma quello modificato? Che affa? Questo è buono, me non posso manutare. Io c'ho il 93. Io sono buono, me. Come ti ho detto l'altra volta, come robustezza e come coso, ambe di microfoni, se li mangia, Come interno stai dicendo? Cappa, sì, no, sono molto robusti sono. Quello che vuole fatta una piccola cosa, vanno alla grande. La resistenza basta cambiare e mettere anche un po' te. Io ci vuole solo quello. Allora va alla grande, no, non mi posso lamentare, bene. Quella che aveva fatto Luca, che ha regalato a Roberto Quadrato, c'è un bel fuori. E va cambiato la capsula, aveva preso la capsula di telefono, il buco. Ma ancora esistente l'ha cambiato, cazzo può uscire la voce. Guarda, ma io ci ho ci volte me. Però io me lo tengo lontano, se no vedi come esce. E io esce bene. Io lo tengo lontano, perché non c'è bisogno, cioè chi ti ho pigliato vicino, cioè come tu che abbia un microfono da tavolo, è la stessa cosa. Solo che un break, ci rimane così vicino, così è sbagliato perché si rompe la modulazione perché è troppo forte, capito? No. Mi sono già abituato a usarlo, poi vedo come modulo anche, che stanno uscendo bene i picchi di modulazione. Questa è una maniera intelligente anche perché se lo tieni in una certa maniera, pure se fa male, però esce bene lo stesso e anche tenendolo così attaccato molte volte e bisogna sempre pulirlo un po' perché magari si sporca. E tutti i tasti, così bisognerebbe pulire tutto quanto, anche gli apparecchi, togliere di ogni tanto, pulire sotto, fare come faccio io. Quando sono in gara lo voto. Cappa, cappa. Questo va bene. A voglia, c'ho già la batteria, va un bel me. Quasi un anno, vabbè, non l'ho usata tantissimo, ma c'è una Sony dentro, cioè. Però dura, cioè è un microfono affidabile perché dura, l'ho usato, non è che non l'ho usato, non tantissimo ma l'ho usato, però è affidabile dai, sulla batteria non mi posso lamentare. Ma io lo uso ogni giorno, è quello che c'è capito, io lo uso ogni giorno, è normale che magari dopo un po' di tempo rompa. Vabbè, pure io sono stato un periodo usandolo tutti i giorni. E la batteria dura, è affidabile. Invece di 2000 mi si scaricava subito. Per quello anche un pochettino l'ho abbandonato un po', per quei motivi lì. Ci vuole applicazione a soletto. Chiappa, quello è arrivato 2 più 2, poi c'ho questo, quello nuovo che... Che va la grande, no, non c'è bisogno di batteria, esce già bene così e via. Quindi abbiamo fatto, tengo uno buono così e non ho il problema di stare sempre già bene. E mi devo guardare con la voce per averle di riserva, lo sa che mi mancava e poi non potevo modulare. Allora, prendevo mai compravo 4-5, che cosa c'è la cosa c'è batterie? Quanto erano 90? Già lo so già. Infatti io le stavo prendendo anche da Fusaro ultimamente, le GP ho usato, che sono molto buone, ho usato le Varta, ho usato le Sony, tutte quelle marche lì sono buone, cavolo, lo dico che sono ottime. E dura c'è la marca, è pubblicizzata molto, ecco cosa c'è. Però io ho usato anche le GP super alcaline, cioè non mi sono pentito, ho usato le Varta Max Tech che vanno alla grande, ho usato le Sony e fanno lo stesso, però le più buone erano le cose, le Varta e le GP. Tutto che questa apparecchio sto pensando, non siamo ancora riesci a perdere, è tutto normalissimo, non tocca per niente. Se apri la LC esce forte la microfonia. E te lo so già. Già va bene così, a me piace tenere l'originale, perché mi piace così. Mi piace proprio l'originale. Giappa, come dici tu, non ti hai dato. No, che cazzo, era giusto, l'apparecchio di Zighi non esce, non anda, se non esci forse, bombardo, ma provavo io che ci andava, l'ha giù corrato, e di dove non anda, Se ci leva a casa, perché per primo esce la facata, perché c'è un bel sonno. a faccio quello che la compare, me la dico, cioè me la dico tutta la faccia così le faccio, cazzo. Che ti fanno così, come ti fa una fontana, subito le va sotto, la luca va sotto a terra, ma mi fanno vedere anche al televisore, tutti così. Sì, è vero, l'unica maniera è quella. Quindi è bullito. Diciamo che un po' di fresco c'è perché c'è va, un po' di fresco, lì ci sciuma, ma quando scende l'acqua fresca è fresca perché è dal fuoco. Hanno intervistato delle spagnole alla fontana di Trevi e hanno detto mucho calor, qua tengo mucho calor. No, ragazzi, aspetta un attimo già che sto prendendo a vedere una cosa che ha tutto in un tocco. Ciao. Eccole qua. Chiara. No, era il bicicletta. Ehi, chi c'è i malandrini? La polizia. Ma rosa. Quei due demoniette. Chissà con mura, che era stesso mura. No. Più grande. E non era valenta. No, magari c'è cuda la Ianna. Pagata. Terba si è ritubulata di la salute, erano in corso, era le... Sì, ci si cuda tutto la Ianna. No, nero mi pare, nero lo ha caputato, dici dove dovevo, di rendersi in terra in se stesso. Cosa te lo si può tenere mai? No, fa, ma è ok, già mi è puro. Perché come dici che pattina, perché c'ha i peli sotto le zampe, c'ha la peluria lunga, no? Come tu, per dire, lo fai spaventare? Scappa, poi va a frenare e decidi lo battesi, poi che pattina, con quel virus lo fanno pattinare. Ma come? E non ci sono niente, ma è una cosa incredibile, insomma. Ma sei un rifatto. Ho detto, mica è lui che lo provoca. Ci mette a correre da tutte le parti, proprio fa provocare, da me e da un bicicletta. Ma di specie non te ne insinca, e lo bruce la ferrovine. E adesso che sono quelle qualizzate, si entra da chi sono in casa, oi. Poco fa ne ho sceso l'uccellino, ma la voce ne va, uno da una parte, uno dall'altra. E quello quando le vede a mangiare c'è un problema che saltano sopra. No, non sapono perché è in alto, lo abbiamo dovuto mettere in alto, poi tassille, legato di Dublin, no, adesso non ci saltano. Ci ha provato nero una volta, solo che caccio verde la gabbia. Ma lo cavo di uccellino, te lo prendo in mano, una volta sì. Ma lo fate lì, lo fate verso la iappa, fatto. Allora, non bisogna fare un culo. Quelli tutti colorati, quelli sì. ma il concorrente mi pare strano. Non ho mai sentito che parli, no, però sarà un caso particolare. No, parlano. C'era quello del negozio degli animali che parlava, e come no? E quelli grandi? No, così. Ma concorrenza, ma voglio vedere su internet a vedere. Ti guarda. È una specie che parlano, però dopo un certo passo di anni parlano. Lui non è che parli proprio, però si imita i suoni così. Però un po' come che ci dirà gli attami, è proprio all'occhio. E invece, fai vedersi. Non lo so, non voglio insistere, però ero convinto che quelli non erano uccidi che imitavano, che facevano queste cose. Pensavo di no, magari sbaglio. Poi altro che no, c'è già. E bisogna fare un culo. Vabbè che il padre di questo amico mio, di San Nicolò d'Arcidano, prendeva il bebè dal nido, quelli normali, non quelli parlanti. E li faceva imparare col fischio, diceva, fa culo. E diceva via, e lui lo faceva. Però li allevava con tanto amore da quando erano piccoli, se li allevava, li stava sempre appresso, tanto in pensione si diverte a fare queste cose. Schiaffa. Non so, è così. È bella già quella passione. Io praticamente ho conosciuto una ragazza in un negozio di animali che praticamente lavorava lì, e quando ho sentito il parmigiano che parlava, gli ho detto, ma quanto vero, no, che lui non è visita, quello è mio. Ah, il tuo, sì. Ma questo si fa tante cose. Mandami un bacio, come si chiamava? Ecco, mandami un bacio. E faceva fare il fischio del vice, e stavo gruppando in brindisi. Ah, sono animali intelligenti, insomma, Poi gli ha detto, guarda che c'è una bella ragazza a passare. Buongiorno, diceva quando entrava la gente, buongiorno. Che gente? Che una volta, alla pratica che mi ha raccontato come l'ha preso, che aveva appena le piume, praticamente, che non erano ancora uscite tutte. Era proprio da Nardo quando l'ha comprato, l'ha pagata 350 euro. Stavano appena aspettando le prime piume. Non parlava né niente. La notte lo vedevi, copriva la gabbia, mi diceva buonanotte. La mattina la toglieva là e il telo che gli metteva, diceva buongiorno, e lui se la guardava, no, tutto se la guardava con gli occhi grandi. Ma cosa che un giorno dice che la mattina ha alzato il telo, ha detto buongiorno, dice che si è rimasto a secca. Si è girato dietro, invece c'era qualcuno che stava facendo il verso, no? Perché magari pensava che non si sapeva di giro. Ma un giorno sa che cosa ha fatto. Cosa ha fatto? Allora, praticamente la mamma dice che lasciava la porta sempre su chiusa, e quando bussava diceva avanti. Un giorno è andata un'amica di questa ragazza e ha trovato la porta però che era chiusa, ha bussato e il magazzino diceva avanti, però non apriva, no, non c'era nessuno in casa. Questa amica si è offesa e non l'ha parlato più. Allora hai capito che era il pappagallino? No, non è pappagallo, non me ne diamo. Guarda, senti, un giorno dice io l'ho fermato. ma per distrarre sto voglio sapere che cosa c'è con me, perché non mi saluti più, perché? Perché mi dice, mi ha fatto, però non mi ha più apposta, lo facevi apposta, andarmi avanti, no, io come faccio a me avanti se c'è un po' che da sola, ma non mi ha più. No, ma gli ha spiegato che non era essa. Gliel'ho spiegato, lo sai che quel fanfarrone, perché mamma quando si ha portato su di quando la carica dice avanti, lui sente a mamma imparato e dice avanti a tutti adesso, lo fa sempre, anche buongiorno con tutta la gente. Ciao, mi avevamo fatto pace, mio. E comunque molte volte si va bene a casini. Ma sai come te l'ha insegnato a parlare? Le ha registrato la sua voce in un nastro e glielo faceva sentire sempre. A furia di sentirlo lui ha cominciato a imparare a parlare. Ciao, sono pericolosi comunque, magari se ti parolacci qualche cosa che di famiglia, eccetera, eccetera, magari Benedito te lo ripete. La chiamava Rita, Rita. Rita! Si cantava, dopo la frusciava. Ma adesso che sa com'è. Era una scena, so. Chiappa. Questi sono belli comunque. Così, e Edoardo ce l'ha fatta. Ehi, Alessio. Lo ricordo. Quello che ne aveva insegnato a te, a Giancarlo. Marisciano, stronzo! Ma c'è una ricorda Giancarlo. Alessio, cos'è Giancarlo? Marisciano, stronzo! Quello che l'ha fatto insegnato a voi! Vabbè, ce la ripete vuol dire che ve l'ha insegnato. Quello di Edoardo faceva la 500 mettendo in moto, perché sotto casa abitava uno che aveva la 500 e la guidava perfettamente l'allarme, cantava avanti poco, poi Vino d'Italia fischiava, e faceva un po' di cose. Però lui l'ha dato alla sorella. La sorella lo metteva di giorno fuori, di notte andava dentro la notte, si è dimenticata di riempirlo, e si è preso il freddo e l'ha mandato. Soffre un bel freddo. Sì, a cabaretto pure sarà. E adesso già, sono molto freddolosi. Sono uccelli tropicali, insomma. Aiutami già un bel far radio che buttende. Non sai cosa gli faceva, lo toglieva dalla gabbia, gli metteva la mano, lo toglieva tutta la pellicina attorno lì in via. Ciao, è già, è un gioco, adesso già cominciamo a buttare la radio che è buttente. Non li vede niente. Ciao, però mi riattacco l'altro, oramai questo l'ha fatto girare un po', adesso riattacco l'altro, quello che stavo usando prima, però fresco. Va, un attimino, allora va a prendere il puletto. Noi, c'è un po' di sette con la bella. Nanni, ci sei? Sento Gianni, ci sei, cambio. Ma no, ti ho detto che era più da parecchio, era puttente. Minchia, ma come? Cioè, sta tirando un po' d'aria adesso. Ecco, ha portato bene qua. Ma adesso che ci mendo io. Ho capito che tu hai detto fondente il cioccolato. Ma tutto che era fondente. Io non lo sto toccando, No, il mio, quello che sta usando poco fa, che sta bene in temperatura, è entrato, gnogno. E che è questo? Sta temperando molto. Io l'ho sostituito, insomma, perché era troppo caldo. L'unica cosa è che mi devo buscare un trattore per usarlo non per le antenne ma per gli apparecchi. Ma buono però, perché l'altro che avevo come quello in Pierpaolo che mi ho comprato lì da Fusaro della Nettaggi non si viene nulla. Oh, pigliare buono e pigliare. Ce li ha tecnocomunicazioni. Grazie, però che hai in culo. Un bigli, cioè pure se costa che soldo, ma con un bigli buono però è buono. E più di 50 euro costa. E vabbè, ma tanto vai a comprare una cosa, vai a provarla e non serve. Invece lo bigli buono ed è buono e basta. Alla fine è cosa che butti lì. Speranto. Io di più. Perché non serve. Speranto. Zara. Aspetta un secondo. Ma attimo tu che se non c'è nulla al telefono. Non c'è problema, già, fai. Eccomi. Aspetta, sto facendo una cosa veloce e sta arrivando. Calma. Ma non mi può gaffare sul microfono, mi va. Ah già. Mi pare mi può gaffare sul microfono, va. Nell'aria di Cavampini. Tu vai sull'amare. No, mi dà fastidio che non funzioni. Una volta che ce l'hai, che sai che funziona, sai che ce l'hai e basta, non lo usi, magari ma ce l'hai. Funziona, se magari non andare così non mi piace. Lo so, purtroppo. Scherzi. Ah, beh, adesso si può aggiustare, dai. Ah, qualche fessidia, qualche contatto che tocca. Qualche cosa che tocca, secondo me, e lo fa partire così, perché come stringi il microfono, se tu lo stringi a manetto, lo fa quel gioco, se tu lo muori, non lo fa più. Proprio qualcosa che tocca. Ma te lo devo usare. Le abbasso con la saldatura e poi le metto, ce le scende il BTT e lo vedo come ti amo. Capo, sicuramente. È proprio qualche cosa che tocca, perché come fai e magari lo tringi di più eccetera eccetera impazzisce. Roba di ripetizione, io. Beh dai, ti saluto che vado, ne vado un po' al PC, anche perché, guardati, metti YouTube e guarda e scrivi Merlo parlante. E poi mi ti fa pagare i parlanti e ti vedi un po' di storia. Ok, vado a vedere, dai. Senti quelle lì che fanno per ridere. Vabbè dai, buonanotte, dai già, dai, ce la risentiamo domani, dai. E così mi guardo col microfono. Vediamo un po' se mi posso assillare o no, così mi vede il giorno. Ciao. Ciao.